Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Seconda parte di Eclettica, l'ultima di questa settimana, fra le 19 e le 20, si è aperta con l'artista che ora fa base al di là dell'oceano ma che di lontana origine belga, Veuve. Ovviamente questo è uno pseudonimo che si presenta con Drapeau Blanc e tutte le sue canzoni, come vi raccontavo la settimana scorsa, sono e saranno in francese, altrimenti, lei ha detto, non si sentirebbe onesta. Devo ancora spiegarvi che cosa vi siete ascoltati in chiusura della prima parte di Eclettica prima di saltare al prossimo brano e vedere come mai questa trasmissione si chiama in questo modo, trovare conferma di come mai questa trasmissione si chiama in questo modo. Infatti ci eravamo ascoltati in chiusura di Eclettica, lo dico all'italiana, una band californiana il cui nome è Qui, fondata nel 2000 da Paul Christensen e Matt Cronk, ma che ha assunto la forma di terzetto quando a fine 2006 si è aggiunto alla formazione David Yeo dei Jesus Lizard. E poi è arrivato anche il contratto con la IPCAC di Mike Patton. Infatti da quel disco sono andato a estrarre per chiudere la prima parte di Eclettica, Apartment. Ora devo dimostrare quanto è eclettica questa trasmissione, quindi passare dal punk noise metal appena citato dei Qui al soul venato di funk di un artista che è statunitense ma fa di base in Finlandia, si fa aiutare da una funk band finlandese. Lei si chiama Nicole Willis, assieme a The Soul Investigators. Il brano che ci ascoltiamo è If This Ain't Love, e sembrerà di entrare all'improvviso in una macchina del tempo come quella che viene citata negli spezzoni cinematografici di questa settimana. About the future. No! Marty! We've already agreed that having information about the future can be extremely dangerous. Even if your intentions are good, it can backfire drastically. Whatever you've got to tell me, I'll find out through the natural course of time. Mistakes. estradizione. 22-25 novembre 1963. Wayne Tedrow, Dallas, 22 novembre 63. L'avevano spedito a Dallas ad ammazzare un pappone negro di nome Wendell Darfey. Non era sicuro di farcela. Il consiglio dei gestori di casinò gli aveva offerto il viaggio, in prima classe. Avevano attinto dai loro fondi neri, l'avevano pagato, gli avevano dato 6 pezzi da 1000. Nessuno l'aveva detto: ammazza quel negro, fa un bel lavoro, prendi i nostri soldi. Questo era l'incipit di 6 pezzi da 1000 di James Ellroy. Mine, but you confessed it, and you're the one doing time. I saw the picture today, the pale confetti in your auburn hair. I have convinced myself I didn't care, and put the paper away. But when you're waiting for a bus in the rain, your mind is set to wander again along the avenues and streets of every life you didn't lead. And all the neighborhoods, they all had their charms. You're only gonna waste in the arms of dreams that linger and then fade with every choice you never made. On the run, I never knew what I was running for. In every room I found the exit door I'd lost before I'd begun. I saw the picture today, the pale confetti in your auburn hair. I have convinced myself I didn't care, threw the paper away. But when you're waiting for a bus in the rain, your mind is set to wander again along the avenues and streets of every life you didn't lead. And all the neighborhoods, they all have their charms. You'll only go to waste in the arms of dreams that linger and then fade with every choice you choice you never made. L'ultima eclettica della settimana sta per arrivare alla conclusione, quindi quale migliore occasione per ricordare il mio indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, sia per scrivermi direttamente come anche per iscrivervi alla lista nera di Eclettica. Dopo l'iscrizione potrete ricevere settimana per settimana le playlist di Eclettica, come anche ricordarvi myspace.com/eclettica, dove le playlist vengono comunque pubblicate e dove trovate anche tutte le indicazioni su come avvalervi del podcasting di questa trasmissione. Ci siamo appena ascoltati The Foxgloves con il brano dal titolo I Dreamt That Love Was A Crime, per passare ad un album che ormai ha qualche mese sulle spalle, intitolato Myth Takes, un album della Warp Records, è l'album dei Chic Chic Chicksy. Avete indovinato che andiamo a riascoltare, data la ripubblicazione come singolo solo digitale, del brano che sta per partire. Un motel abbandonato ai piedi delle colline di Saint-Berdoux. Quando Buzz Mix arrivò, aveva con sé $94,000, 9 kg di eroina pura, un fucile a pompa calibro 12, una 38 Special, una 45 automatica e un coltello a seramanico che aveva comprato da un paciuco alla frontiera, un momento prima di accorgersi dell'auto parcheggiata proprio sulla linea di confine. Gli scagnozzi di Mickey Cohen in una macchina senza insegne della polizia di Los Angeles e lì accanto, in piedi, un paio di poliziotti di Tijuana, pronti ad alleggerirgli le tasche e a scaraventarlo nel fiume Sant'Isidro. Questo era l'incipit di L.A. Confidential di James Ellroy. It is, but when I kiss you, it's like I'm kissing my brother. I guess that doesn't make any sense, does it? Believe me, It makes perfect sense. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 2, volume numero 5, indice, Ring of Death Star, Radiohead, Stalkers, Nina Anastasia e Jim White, Land of Talk, Caribou, Qui, Völve, Nicole Willis and the Soul Investigators, Devastations, The Fox Gloves, Chick Chick Chick, Six Organs of Admittance. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.